Il terzo anello ad alta voce. I Buddenbrock di Thomas Mann. Una cosa addolorava il console: che suo padre non avesse più potuto assistere all'ingresso del nipote maggiore nell'azienda, avvenuto intorno alla Pasqua dello stesso anno. Thomas aveva finito la scuola a 16 anni, era cresciuto molto negli ultimi tempi e, dopo la confermazione alla quale il pastore Kölling gli aveva raccomandato la moderazione, portava vestiti da uomo che lo facevano sembrare ancora più alto. Al collo aveva la lunga catena d'oro dell'orologio lasciatagli dal nonno e v'era appeso un medaglione con lo stemma di famiglia, quello stemma malinconico che rappresentava, sopra un tratteggio irregolare, un piatto terreno paludoso con un salice nudo e solitario sulla riva. L'anello, ancor più antico, con la pietra verde che aveva portato probabilmente già il molto agiato sarto di Rostock, era passato al console insieme con la grande Bibbia. In Thomas la somiglianza col nonno si era sviluppata come in Christian quella col babbo, specialmente il mento sodo e rotondo e il naso dritto dal taglio fine erano quelli del vecchio. I suoi capelli con la scriminatura da una parte, che formavano due insenature sulle tempie strette e visibilmente venate, erano d'un biondo scuro, e in contrasto con questi le lunghe ciglia e le sopracciglia apparivano insolitamente chiare e stinte. Di solito egli teneva un sopracciglio leggermente sollevato. I suoi gesti, il modo di parlare e di ridere che metteva in mostra i denti un po' guasti, erano pacati e intelligenti. Egli intendeva dedicarsi alla sua professione con zelo e serietà. Fu un giorno straordinariamente solenne, quello in cui il console, dopo la prima colazione, scese con lui negli uffici per presentarlo al signor Marcus, il procuratore, al signor Haverman, il cassiere, e al resto del personale col quale era già in buona amicizia. Quando per la prima volta si trovò seduto sullo sgabello girevole davanti alla scrivania, intento a timbrare, ordinare, copiare, e quando suo padre nel pomeriggio lo condusse giù al trave nei magazzini del Tiglio, del Rovere, del Leone e della Balena, Thomas vi conosceva già da tempo ogni angolo, ma ora fu presentato come collaboratore. Si dedicava al lavoro con assiduità, imitando la diligenza tranquilla e tenace del babbo, che lavorava a denti stretti e registrava nel diario parecchie preghiere e richieste di assistenza. Si trattava infatti di riacquistare i capitali notevoli che alla morte del vecchio erano andati perduti per la ditta per la quale il babbo aveva una specie di culto. Johann Buddenbrock, che pian piano si avvicinava ai 45, era visibilmente invecchiato in quegli ultimi anni. I suoi occhietti tondi si erano ancora più infossati, il grosso naso curvo e gli zigomi erano più sporgenti, e pareva che un piumino da cipria gli fosse passato leggero leggero sui capelli biondo cenere accuratamente pettinati sulle tempie. Sua moglie era verso i 40, ma conservava ancora il suo aspetto non bello e pur brillante, e la sua carnagione bianca con qualche felide non aveva perduto nulla della sua delicatezza. Tony la mettiamo a pensione, e precisamente dalla signorina Weichbrot, disse il console Buddenbrock, e lo disse in tono talmente deciso che si dovette fare così. di Tony e Christian, come abbiamo accennato, si era meno contenti che di Thomas, il quale si dedicava agli affari con molto ingegno, di Clara che cresceva vispa e della povera Clotilde il cui appetito non poteva che rallegrare chiunque. A proposito di Christian, il peggio fu quando si venne a sapere quanto segue. Una sera l'alunno Christian Bodenbrock ebbe il permesso di andare con un buon amico a teatro, dove si dava il Guglielmo Tell di Schiller. La parte di Walter, il figlio di Tell, era recitata da una ragazza, una certa demoiselle Meyer de la Grange. La giovane attrice era molto carina e recitava in modo così commovente che Christian Bodenbrock si trovò con gli occhi pieni di lacrime. Durante un intervallo corse dal fioraio di rimpetto e acquistò per un marco e 8 scellini un mazzo di fiori, col quale il marmocchio 14enne dal naso grosso e dagli occhietti infossati prese la via del palcoscenico. E poiché nessuno pensò a fermarlo, si imbatté davanti a un camerino nella signorina Meyer de la Grange. Le porse i fiori, crollò lentamente la testa e disse con un tono quasi dolente, tanto era sincero: «Signorina, come avete recitato bene!» Questi erano i fatti, che si propagarono come un baleno in tutta la città, arrivando persino alle orecchie del console Bodenbrock. Ma come la prese costui? Più che adirato, rimase accasciato, annichilito. E quando riferì la cosa alla moglie nella stanza dei paesaggi, appariva quasi affranto. «Questo è nostro figlio, così vien su. Dio mio, Jan, tuo padre ne avrebbe riso. E giovedì vai pure a raccontarlo ai miei genitori. Il babbo si divertirà immensamente.» Sì, il caso era grave. E il console era tanto più atterrito in quanto anche Tony non teneva un comportamento irreprensibile. Con gli anni aveva bensì rinunciato a far ballare su una gamba sola l'uomo pallido e a suonare il campanello della bambolaia, ma aveva un modo sempre più ardito di arrovesciare la testa, e specialmente d'estate, quando era coi nonni, le si riscontrava una riprovevole tendenza all'arroganza e alla vanità. Un giorno il console la sorprese con suo grande dispiacere a leggere, insieme con la signorina Jungmann, Mimili di Clorin. Sfogliò il volumetto, stette zitto e lo chiuse per sempre. Poco dopo si venne a sapere che Tony, Anthony Bodenbrock, era andata a passeggio fuori porta, sola sola, con uno studente di ginnasio, amico dei suoi fratelli. La signora Stutt, quella stessa che frequentava i circoli migliori, li aveva visti e, in occasione di un acquisto di abiti in casa Möllendorf, aveva fatto notare che, in verità, anche madamigella Bodenbrock aveva raggiunto l'età in cui... E la signora Möllendorf lo aveva riferito al console, sorridendo. Quelle passeggiate furono troncate. Ma in seguito risultò che la signorina Tony andava a ritirare e a nascondere bigliettini in uno di quei vecchi alberi cavi dietro la rocca che erano insufficientemente riempiti di cemento, e che quei biglietti erano dello stesso studente. Quando tutto ciò venne alla luce, si impose la necessità di mettere la 15enne sotto severa sorveglianza in una pensione, e precisamente in quella della signorina Weichbrot, Mühlenbrink numero 7. Therese Weichbrot era gobba, tanto gobba che non era più alta di un comune tavolino. Aveva 41 anni, ma poiché non aveva mai tenuto ad essere piacente, si vestiva come una vecchia di 60 o 70 anni. Sui riccioli grigi imbottiti sopra le orecchie portava una cuffia con nastri verdi che le ricadevano sulle strette spalle infantili. Aveva occhi acuti e intelligenti, il naso leggermente curvo e le labbra sottili che sapeva stringere nel modo più deciso. In genere la sua figura meschina e tutti i suoi movimenti facevano un effetto buffo da una parte, ma incutevano anche rispetto. A ciò contribuiva il suo modo di parlare. Da bambina Therese Weichbrot aveva chiamato se stessa Sesemi, e questo cambiamento di nome l'aveva conservato, permettendo alle scolare migliori e più brave, sia interne sia esterne, di chiamarla così. «Chiamami pure Sesemi, figliola», disse fin dal primo giorno a Tony Budenbrock, baciandola in fronte con un breve schiocco. «Me lo sento dire volentieri». Tony Budenbrock, come abbiamo accennato, fu accolta con tenerezza. Anzi, a cena Sesemi offrì il Bischoff, un punch rosso e dolce che si beveva freddo e che lei sapeva preparare alla perfezione. «Ancora un pochino di Bischoff?» domandava con una scossa cordiale del capo. Ed era così invitante che nessuno sapeva resistere. La signorina sedeva a capotavola su due cuscini da divano e dominava la mensa con energia e accortezza. A Tony era stato assegnato il posto in mezzo a due altre pensionanti, fra Amgard von Schilling, la figlia bionda e robusta di un possidente del Mecklenburgo, e Gerda Arnoldsen di Amsterdam. Una figura elegante ed esotica, dai capelli abbondanti d'un rosso scuro, dagli occhi bruni molto ravvicinati e dal bel viso bianco un pochino superbo. Di fronte a lei ci calava la francese, che aveva l'aspetto di una negra e portava alle orecchie enormi cerchi d'oro. All'altro capo della tavola era seduta col suo sorriso acido la magra inglese Miss Brown, che pure abitava in casa. Grazie al Bischoff di Sesemi si fece amicizia rapidamente. Nella notte precedente, Mademoiselle Popinet aveva avuto di nuovo l'incubo, così raccontava. Poi si seppe che Gerda Arnoldsen non suonava il pianoforte come le altre, ma il violino, e che suo padre, la madre era morta, le aveva promesso uno Stradivario autentico. Amgard von Schilling parlava delle mucche che avevano a casa sua. Amgard non era affatto fine, non ci teneva per niente, non aveva il senso della finezza. Questa parola, finezza, Tony se l'era fitta profondamente in capo e l'applicava con insistenza ammirativa a Gerda Arnoldsen. Costei era un po' eccentrica e aveva un che di forestiero, di esotico. Nonostante le proteste di Sesemi, amava pettinarsi i magnifici capelli rossi in modo appariscente e a molte sembrava insulso che suonasse il violino, da osservare che insulso era una parola di energica riprovazione. Bisognava però essere d'accordo con Tony nell'ammettere che Gerda era una ragazza fine. Le tre ragazze strinsero rapidamente amicizia, frequentavano la medesima classe e abitavano insieme al piano superiore nella camera più spaziosa. Com'erano divertenti e piacevoli i momenti quando si andava a letto dopo le 10 e si chiacchierava svestendosi. a mezza voce però, perché nella camera attigua Mademoiselle Popinet incominciava a sognare dei ladri. «Dio mio!» fece Amgard seduta semivestita sulla sponda del letto. «Come parla spedito il dottor Neumann! Entra in classe, si appoggia alla cattedra e parla di Racine!» «Ne sei innamorata?» domandò Tony. «Sposalo! È un ottimo partito! Diventerà professore al ginnasio!» «Dio, come siete antipatiche! Non lo amo affatto! Del resto non sposerò mai un insegnante, ma un agricoltore!» «Dovrà avere molti terreni! Ah, che gioia, ragazze! Mi alzerò alle 5 del mattino e baderò i lavori!» E tiratasi addosso la coperta, guardò sognando il soffitto. Tony lasciò cadere la testa sul cuscino, incrociò le mani sotto la nuca e fissò a sua volta il soffitto. «Naturalmente io sposerò un commerciante», disse. «Dovrà avere molto denaro perché si possa tenere una casa signorile. Lo devo alla mia famiglia e alla ditta», soggiunse con serietà. «Oh, vedrete che riuscirò!» Gerda aveva finito di pettinarsi per la notte e si lavava i denti mentre si guardava nel suo specchietto d'avorio. «Io probabilmente non mi mariterò affatto», disse con una certa fatica perché la polvere del dentifricio alla menta le impediva di parlare. «Che peccato!» esclamò Tony con vivacità. «Un vero peccato, Gerda! Dovresti sposarti qui e restare qui sempre! Ecco, per esempio, potresti sposare uno dei miei fratelli!» Ma in quella si fece sentire Mademoiselle Popinet. «Ah, voyons, madame! A letto, s'il vous plaît! Tanto questa sera non vi sposerete!» Così passarono gli anni e tutto sommato Tony ebbe una giovinezza felice. Poco dopo le 5, un pomeriggio di giugno, la famiglia era nel giardino davanti al cosiddetto portale e aveva preso il caffè. Poi si vide Anton attraversare il cortile. Arrivava con un biglietto su un vassoio e tutti lo guardarono incuriositi. Grünlich, agente, lesse il console. Di Amburgo, figlio d'un pastore, persona garbata e molto raccomandata. Sto combinando con lui qualche affare. C'è una questione. Di al signore Anton che favorisca. Attraverso il giardino, il bastone e il cappello in una mano, a passi piuttosto brevi, la testa un po' in avanti, arrivò un uomo di media statura, di circa 32 anni, vestito di lana giallo-verde, coi guanti grigi di filo. Il suo viso, sotto i capelli radi e biondi, era roseo e sorridente, ma accanto a una narice aveva un neo vistoso. Aveva il mento e le labbra rasi e portava lunghi scopettoni all'inglese, e questi erano decisamente d'un colore giallo dorato. Già da lontano fece col cappello grigio un gesto di devozione. Con un ultimo passo molto lungo si avvicinò, descrisse col busto un semicerchio e si inchinò così davanti a tutti. «Vedo che disturbo entrando nell'intimità della famiglia», disse con voce morbida e con signorile ritegno. «Si leggono buoni libri, si discorre. Devo chiedere scusa». «Lei è il benvenuto, caro signor Grünlich», disse il console, che coi due figli si era alzato e stringeva la mano all'ospite. «Sono molto lieto di poterla salutare anche fuori d'ufficio, nella cerchia della mia famiglia. Betsy, il signor Grünlich, mio ottimo collega d'affari, mia figlia Antonie, mia nipote Clotilde, Thomas lo conosce già, e questo è il mio secondo figliolo, Christian, studente di liceo». A ogni nome il signor Grünlich aveva risposto con un nuovo inchino. La signora aprì la conversazione. «Lei abita ad Amburgo?» domandò inclinando un po' la testa e deponendo il lavoro in grembo. «Sì, signora», rispose Grünlich con un nuovo inchino. «Ho il mio domicilio ad Amburgo, ma viaggio molto. Ho moltissimo da fare. La mia azienda è attivissima, posso ben dirlo». La signora sollevò le sopracciglia e mosse le labbra quasi per dire con ammirazione: «Ah, sì? Che giardino stupendo!» interruppe Grünlich, mentre ringraziando prendeva un sigaro offertogli dal console. «Ma per un giardino di città è insolitamente vasto. E che tappeto di fiori! Ecco, confesso che ho un debole per i fiori e per la natura in genere. Quei rosolacci laggiù sono straordinariamente decorativi». Grünlich lodò la fine disposizione della casa, lodò tutta la città, lodò il sigaro del console ed ebbe per ognuno una parola gentile. Seguì una pausa, durante la quale Tony pensò: «Adesso tocca a me». Grünlich infatti la guardava, e fu proprio la sua volta. Grünlich ebbe come uno scatto, fece un gesto convulso e tuttavia elegante verso la padrona di casa e mormorò agitato: «Per favore, signora, ha osservato? Oh, per carità, signorina!» Si interruppe a voce alta, come se Tony dovesse sentire soltanto questo. «Resti un momento in cotesta posizione. Osservi!» continuò sussurrando. «Come il sole illumina i capelli della signorina! Oh, non ho mai visto capelli così belli!» disse poi, estasiato e guardando in alto, come se discorresse con Dio o col proprio cuore. La madre sorrise lusingata. Il console disse: non monti la testa alla ragazza!» E Tony riaggrottò le sopracciglia in silenzio. Dopo pochi minuti Grünlich si alzò. «Ma non voglio disturbare più a lungo. No, no, no, signora, non voglio disturbare. Sono venuto per affari. Ma come si fa a resistere? Adesso però il lavoro ci chiama. Se posso pregare il signor console...» In ogni caso, concluse porgendogli ancora una volta la mano con un gesto cordiale, spero che non ci siamo visti per l'ultima volta. Grünlich baciò la mano alla signora, aspettò un istante che anche Antonie gli porgesse la sua, ma ciò non avvenne. Descrisse un semicerchio col busto, si ritirò d'un passo, si inchinò un'altra volta, poi si mise il cappello in testa con un gesto largo e si allontanò col console. «Un ragazzo simpatico!» disse quest'ultimo quando ritornò presso la famiglia ed ebbe ripreso il suo posto. «A me pare sciocco!» si permise di osservare Tony calcando sulla parola. «Ma Tony, che modo di giudicare!» esclamò sua madre un po' indignata. «Un giovane di sentimenti così cristiani! Un uomo di mondo così educato!» completò il console. «Non sai quello che dici!» Tony però brontolava fra sé. «E quegli scopettoni color giallo oro!» e corrugava le sopracciglia come aveva già fatto più volte. Elsa ha galbato ha letto I Buddenbrock di Thomas Mann, riduzione di Paola Roli, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.